Allora, io sono molto indecisa perché sono venuta qua perché vi voglio raccontare che cos'è il collaborative mapping e voi che cosa potete fare con il collaborative mapping. E alla fine vi volevo presentare la mia piattaforma di collaborative mapping che si chiama Mappina. È una piattaforma che fa realizzare, è nata per far costruire un'immagine culturale diversa dagli abitanti della propria città, fuori dagli stereotipi. Però il racconto che forse gli faccio, abbiamo fatto, giusto per collegarmi a questo, e poi riprendiamo il collaborative mapping, Mappina esiste dalla fine del 2013. È nata a Napoli e poi ha aperto a Milano, Roma, Venezia, ogni tanto apre in altre città, cioè fa fare le mappe ai cittadini di altre città. Ad aprile dell'anno scorso, poiché la piattaforma l'ho fatta io e io nasco come urban planner, cioè faccio tutto un altro lavoro nella vita, abbiamo deciso di aprire un crowdfunding, cioè di lanciare il progetto e chiedere soldi per rifare sia la piattaforma che l'app. Dovete considerare che tutte le cose che ha detto Luigi io le so, però non sapevo di saperle, cioè non sapevo che queste cose avevano dei nomi, no? È una classica cosa di quando uno legge un libro e dice: ah, questo dice la stessa cosa che penso io, però non sapevo che teneva quel nome là. Per cui io tutta questa roba qua l'ho masticata senza sapere di farla. Il crowdfunding era per 30.000 euro e ne abbiamo raccolti 44.700, non lavorando quasi esclusivamente su Facebook, Twitter e mail, pochissime mail. Chi di voi vorrà un giorno intraprendere il crowdfunding mi chiama e io gli racconto quanto è difficile. Soprattutto... No, anche quanto affetto hai avuto intorno a quell'operazione lì. Nel senso che si è mossa anche tanta gente. Si è mossa moltissima gente. Abbiamo appena visto, no? Se non si muove la gente intorno, rimani tu col cerino, no? Sì, si è mossa moltissima gente, però è anche una grande fatica, eh? Una faticaccia. Cioè, se a me oggi mi dicessero: vuoi fare il crowdfunding? Io gli direi: chiedimelo fra qualche anno. Possiamo tornare un attimo, perché mi interessava questo collegamento tra piattaforme social lì e perché ti è venuto in mente di fare una piattaforma social in un'altra maniera. Cioè, cosa ti mancava? E che è la cosa che può interessare a loro. Allora, io sono napoletana, si capisce, no? Vi racconto un attimo la mia storia, perché altrimenti non si capisce da dove viene Mappina. Io sono una napoletana e ho fatto per moltissimi anni proprio l'urbanista, cioè scrivevo le regole di uso del territorio, anzi le norme tecniche di attuazione. Sapete che sono le norme tecniche di attuazione? Quelle là legate ai piani regolatori. Scrivevo articolo 1, si può fare questo, non si può fare questo. Poi ho cambiato un po' il mestiere e ho cominciato a fare l'urban planner, lavorando anche, sono stata quasi 20 anni all'università a insegnare agli studenti. Ho cominciato a fare l'urban planner. L'urban planner che cosa fa? Non scrive le norme tecniche di attuazione, ma costruisce tavoli per portare avanti progetti di sviluppo, in genere di trasformazione del territorio. Da questo lavoro qua sono passata a costruire progetti di sviluppo a leva culturale per la rigenerazione dei territori. A un certo punto, come dice quello là nel film La Grande Bellezza, a 60 anni mi sono accorta che non volevo fare più le cose. Io a 40 anni, ho deciso che non volevo più fare l'urban planning, che l'università non mi dava grandi soddisfazioni, perché le cose che volevo fare io all'università non le potevo fare. E cioè, nel senso che non erano per loro, cioè io all'università ho fatto nel 2000 una tesi di dottorato che si chiamava Spazi pubblici come beni comuni, dovendo lottare con tutta l'università, che non voleva sentire parlare di beni comuni. Adesso stanno tutti a parlare di beni comuni e mi cioè, se io gli avessi detto all'università che volevo fare una cosa che si chiamava collaborative mapping, quelli, e tanto è vero che lo dissi e mi risero appresso. Allora andai via. E vi ricordate che Napoli è una città che fino a qualche anno fa era invasa dai rifiuti? Avevamo i rifiuti fino al secondo piano. Nel mio anno sabbatico, in cui avevo deciso che lasciavo l'università, l'urban planner la volevo fare, ma lo volevo fare solo per delle cose che dicevo io, succede la tragedia dei rifiuti a Napoli. Avevamo i rifiuti fino al secondo piano, voi non avete idea di che cos'è. Cioè, aprivi la finestra e ti trovavi il sacchetto del rifiuto. Sui social e sui giornali, su quasi tutti i media, uscivano due immagini di Napoli. Quella con i rifiuti, come la città più brutta del mondo, più violenta, più sporca, e quella dei napoletani come Napoli, la città più bella del mondo. Cioè, il mandolino, la pizza, il Vesuvio, il golfo, tutto era o più bello o più brutto. Tutto quello che stava in mezzo, che io come tutti gli abitanti di una città sappiamo benissimo che la città non è fatta, come dire, di immagini di cartoline e soprattutto di immagini esterne che ci raccontano su noi stessi, ho pensato che forse il mio tempo di riflessione poteva essere arruolato in una cosa che si chiamava mappina, cioè far raccontare ai napoletani effettivamente qual era la loro città. E ho pensato che questa cosa non doveva essere fatta come un social network del cavolo, cioè il senso che altrimenti mi ritrovavo il Vesuvio, il mandolino, la munnezza, gli spari per strada e le buche, perché poi se ci stanno sempre le buche. E ho detto, cosa c'è di bello in questa città? L'idea era di dire, questa città è una città diversa dalle altre, perché tutte le città sono diverse dalle altre, non è la città più bella del mondo, perché secondo me la città più bella del mondo è New York, e comunque tutte le città sono le città più belle del mondo. Istanbul è bellissima, New York è bellissima, Trento è bellissima, Rovereto è bellissima, questo posto è bellissimo, non esistono. Allora ho detto, incominciamo a chiedere agli abitanti di raccontare cosa accade nei luoghi, cioè di cosa accade sui muri, dalla street art ai cartelli che scrivono, di cosa accade per strada, cioè come gli abitanti utilizzano la strada per loro, soprattutto giocandoci. Anche qua i ragazzi giocheranno ovunque, no? A pallone giocano? Giocano ovunque. A noi giocano a pallone, giocano a cricket, perché poi ci sono le varie comunità, il parkour, che tu non sai che cos'è oggi. No, sapevo il termine, Noi abbiamo la mappa di chi fa parkour a Napoli. Sapete che voi lo sapete che cos'è il parkour? Lui non lo sapeva. Di chi fa il parkour a Napoli? Cioè chi gioca nella città, ossia porta un gioco che si fa da una parte, tipo gli scacchi, e lo fa in città, e chi gioca con la città, utilizza i materiali urbani per giocare. Poi gli abbiamo chiesto, raccontateci quello che capita solo in quel posto, solo a Napoli, si chiamava inizialmente e adesso si chiama solo A, e sono le classiche particolarità che trovi in tutte le città. La terza mappa dei luoghi qual è? Ah, gli arredi urbani, la quarta. Tutti gli abitanti a Napoli, ma ho scoperto in tutte le altre città, rendono comoda la propria città. Laddove non c'è una sedia la mettono, laddove non c'è un fiore lo mettono. Insomma, quelli per me sono gli abitanti rendono comoda la città. Poi ho chiesto di fare i suoni, ho chiesto agli abitanti di ascoltare la città. Prima gli ho chiesto di guardare. Poi gli ho chiesto di ascoltare e di fare la mappa dei suoni, ma anche dei dialoghi che loro sentono in città, per cui possono mettere pure testi. Poi degli immobili e degli spazi abbandonati. Tutti gli immobili, sia pubblici che privati. Questa è l'unica mappa su cui noi facciamo un lavoro di back-end, perché ricostruiamo di chi è l'immobile, se c'è un progetto sopra, e la storia, il monitoraggio di quel progetto, se c'è. Questo è avvenuto anche in collaborazione con il Comune di Napoli, no? Devi considerare. La lettera che avevi chiesto al Comune di Napoli di rilasciare dei dati per caricare. Questa è un'altra mappa. Okay. Questa è la mappa del patrimonio che abbiamo incrociato, abbiamo tirato fuori la mappa del patrimonio rilasciata in amministrazione trasparente, l'abbiamo georeferenziata. Patrimonio quello là tutto il patrimonio è quello là dato in affitto, per cui è la stessa mappa su cui tu riesci a avere tutti questi dati. No, quello non l'abbiamo, io l'ho fatto io, è il Comune di Napoli che va a guardare su Mappina il suo patrimonio. Perché io infatti a volte mi trovo tipo 25.000 accessi, ma che cacchio è? Poi vado a vedere l'IP, Comune di Napoli, fatto e vabbè, e sono quelli là del dell'ufficio patrimonio che fanno prima a vedere, ah ma questo là, mo vado su Mappina e lo trovo dove sta, perché è georeferenziato. Che ci ha impiegato, guardate. Vabbè, su questo si dovrebbe aprire un'altra lezione, forse Matteo sarebbe più bravo di me, perché fare gli open data non è una cosa molto semplice, cioè utilizzare dati sporchi soprattutto, cioè l'open data non è che tu hai un dato e lo rilasci, devi rilasciare il dato pulito. Quello che io dico ogni tanto quando parlo di open data agli amministratori: voi siete pochi a scrivere, noi siamo molti a leggere. Se voi rilasciate un dato sporco, io faccio un grandissimo lavoro per renderlo riutilizzabile, però questo è un'altra cosa. Poi abbiamo chiesto sugli spazi di immobili abbandonati di elaborare idee di riuso, per cui abbiamo la mappa delle idee. La quinta mappa è la mappa degli attori culturali. Intendiamo per attori culturali chiunque promuova e produca cultura, dalla scuola all'associazione, dall'osservatorio astronomico all'università. Chi promuove e produce cultura e come lo fa? Infatti loro possono mappare pure gli eventi. Questa così è nata Mappina. È andata avanti, abbiamo aperto anche un'altra mappa, che sono i racconti, cioè gli appunti visivi, e questa è una mappa molto architettonica, ce l'hanno chiesto gli architetti di Venezia, perché loro vogliono restituire un altro sguardo sulla città. Ed è una mappa che, se l'andate a vedere, soprattutto quella di Venezia, è una mappa che parla molto delle architetture. Io che sono architetto non ci avevo pensato che forse poteva interessare una mappa sulle architetture. Dopodiché, che cosa facciamo? Questa è la prima fase di Mappina. Con il crowdfunding, il progetto di Mappina prevede di lavorare anche, noi lavoriamo moltissimo online, di lavorare offline con il Comune di Napoli e con gli altri comuni. Tra gli spazi abbandonati selezioneremo alcuni degli immobili, un immobile, due, tre, dipende quanti laboratori riusciremo a fare, e faremo quelli che noi diciamo i laboratori di reimmaginazione dello spazio. L'idea è di usare temporalmente quello spazio per reimmaginarlo, non occuparlo, perché a noi non interessa occupare lo spazio. A noi interessa che i cittadini si riappropriano della loro capacità di reimmaginazione degli spazi. Questo è l'unico obiettivo. E insieme al Comune di Napoli e con tutti chi lavora su Mappina, io quando dico chi lavora su Mappina sono i 400 mappers che ci caricano i contenuti, selezioneremo gli spazi e faremo questi laboratori. Sono persone che hai coinvolto in questa tua fase industriale? No, sì, i 400 mappers sono quelli là che caricano i contenuti sulla piattaforma. Non è che la conoscono, lei in fondo ha lanciato un'idea di vedere la città, di rivederla. Se mi trasferisco a Napoli e sto là 3-4 mesi, posso diventare anch'io un... Possiamo fare anche la mappa di qua, eh? Non è che ti devi trasferire a Napoli. Ah, ok, sì, sì. No, ma per inserire diciamo le informazioni. Era nato città, in un momento in cui erano nati, ti raccontavo anche di Mappy, no? In un momento in cui c'era bisogno, soprattutto stranamente dagli architetti, perché anche Mappy è fondata da architetti, è strana questa cosa, dove c'era bisogno di raccontare il territorio e georeferenziarlo, questa cosa, per vari motivi, no? E quindi praticamente è semplicemente un logarsi con un social network e sì, dai il tuo contributo. E dai, contribuisci con un contributo individuale a una mappa collettiva. Perché il tuo contributo va a finire nella mappa costruita da tutti. Quello che dico io è una nuova forma di narrazione urbana. Infatti la cosa molto bellina che oggi è che la scuola Holden di Torino, che loro scrivono, hanno detto che vogliono fare la mappa di Torino. Io ho detto, ma a me sembra una genialata che voi volete fare la mappa di Torino, voi che scrivete e io che faccio raccontare attraverso immagini, video, audio e testi il territorio. Per cui questo può essere anche utile moltissimo a voi se avete voglia di raccontare il territorio coinvolgendo non solo la vostra, i vostri associati, ma diffondendo, come dire, anche la vostra visione del territorio e coinvolgendo altri mappers a farlo. Io ho lavorato molto in rete e sono più di 400 mappers, però più o meno sono 400, perché poi non è che caricano, stanno sempre a caricare contenuti, magari ce n'è uno, me ne ha caricato uno e poi non si è visto più. Può servire tantissimo non solo a voi che siete, come dire, vi occupate di quello che accade sul vostro territorio, ma serve anche a raccontarlo all'esterno. Voi lo raccontate a voi stessi, lo fate raccontare a voi stessi e lo raccontate all'esterno. Poi potete fare tantissime cose, dipende quali sono gli obiettivi. Il mio obiettivo principale con Mappina era di utilizzare lo smartphone invece per farsi i selfie, per far raccontare ai cittadini la città. E in questo un po' ci sono riuscita. Cioè, invece di farsi così, di fare così. E di mettere tutto questo online. Cioè, mentre mo ci vo', Facebook lavora molto sui selfie, ogni volta che io mi faccio un selfie con qualcuno e lo metto su Facebook, prendo 60 mi piace, e questo qualche nostro amico non ci può pensare, che dice: ma io ti metto delle immagini bellissime su Facebook, questo lui pensa, mettiamo un selfie, pata, 60 mi piace. Io su Mappina ho chiesto di fare questo. Il secondo obiettivo che cercherò di fare, cercheremo di fare insieme adesso che rifacciamo, buttiamo giù la piattaforma e ne facciamo un'altra, è di far scegliere a chi mette i contenuti su Mappina come e con chi condividerlo. Attualmente, se voi mettete un contenuto su Mappina, il contenuto è vostro. Rilasciate soltanto una licenza a Mappina per poterlo utilizzare sul sito, in manifestazioni, se io vi faccio vedere il video che ho fatto per il coso, in queste cose qua. Quando rifarò la piattaforma, se ora sono riuscita un po' agli abitanti di Napoli, ma anche agli altri, a far vedere che su quel muro là non è uno scarabocchio, ma se lo guardi bene si chiama Zilda ed è uno bravo che fa delle cose, fa dei poster in tutto il mondo, adesso cercherò di fargli capire che quando loro condividono i contenuti devono capire con chi li condividono. Per cui chi contribuirà a Mappina deciderà se il contenuto è suo o se lo vuole lasciare in CC BY, cercando di far costruire un archivio condiviso di tutte le cose che vengono caricate e farle caricare su Wikicommons. Avete domande? Vi faccio vedere il video? Tu hai avuto a che fare in questi anni con tanti operatori di questo settore qua, no? Perché state facendo anche un progetto europeo, no? Che idea ti sei fatta? Dove sta andando la piattaforma collaborativa? Cioè uscire dal social network che ci ha raccontato Luigi per costruire un'esperienza, che ne so, meno monetizzata e più utile, ecco. Allora, sulla questione monetizzazione non ti saprei rispondere, anche perché come che ne so, presidente di un'associazione che vuole integrare la propria proposta anche sul territorio. Sì, però presidente di un'associazione che fra due minuti fa una società e alcuni servizi te li farà pagare se li vuoi sfruttare, perché poi queste cose si reggono, ma fino a un certo punto, cioè a me non mi servono 44.700 euro, a me me ne servono 300.000 di euro per fare la cosa che voglio fare io. E però per fare la cosa che voglio fare io, che è un progetto culturale, io ho bisogno di avere soldi che girano su questa cosa, altrimenti non vado da nessuna parte. Questo sia chiaro. La domanda era che futuro è che ti poni in genere? Non io, dico in generale. In generale tutti i gruppi che hai frequentato che parlano di queste cose qua, no? Beh, in generale secondo me c'è moltissima voglia di utilizzare le mappe per raccontare, cioè per raccontare cosa c'è e cosa ci sarà, soprattutto, e anche cosa c'è stato, la tua mappa della memoria e che cosa c'è stato. Però per raccontare attraverso uno strumento di facile lettura, perché la mappa è una cosa che abbiamo sempre utilizzato tutti in qualche modo, no? Dicevo, adesso con lo smartphone andiamo in giro con Google o con Google Map o OpenStreetMap, però prima comunque si usavano le mappe. Per cui è lo strumento più semplice per far vedere delle cose che accadono sul territorio. E per cui a mio parere andrà avanti tantissimo. Tu devi considerare che io ho fatto mappina nel 2013, ma perché io ci ho impiegato 6 mesi a tirare sulla piattaforma, non essendo, ma se l'avessi fatto uscire nel momento in cui l'ho pensata, era molto prima. E io ora dove mi giro si fanno mappe. Cioè, ora tu, prima Google non aveva, Facebook non aveva la localizzazione. Perché? Perché adesso siamo, però invece di utilizzare, perché Foursquare, come dire, fra virgolette, perché tu, è il tuo check-in, no? È sempre sui tuoi selfie Non è geolocalizzati. social, dici? Non è social È perché non si può. social, è social sul personale, non è social sul collettivo. Quando io dico tu perché il successo di Mappina? Perché tu non partecipi col tuo sguardo dentro un progetto che è collettivo. Cioè il tuo è un contributo o 20 contributi insieme a altri 100 contributi. L'altro giorno mi hanno chiesto, vabbè, ma se ti fotografano lo stesso writer, tu che fai? Li tieni tutti? Sì che li tengo tutti, perché sono 100 fotografie diverse fatte da 100 persone diverse. E per me hanno valore tutte e 100. Ah, ma no, perché non ne scegli una? Poi se si mettono una foto brutta, vabbè, se mettono una foto brutta se ne accorgono che ce ne stanno altre 99 belle e magari la cambiano. Allora l'idea è di costruire collettivamente una conoscenza territoriale diffusa che c'è, perché è vero che io ho la mappa sugli immobili abbandonati e quella su cui io faccio una ricerca, ma a me ne arrivano già informazioni belle documentate degli abitanti che sanno perfettamente la storia dei luoghi e che la raccontano e sono disposti a raccontarla. Allora magari io devo verificare solo qualche dato se io non lo so. Però Quindi, come dire, l'associazione promotrice della piattaforma, ma che poi ovviamente si allarga a tutto il territorio, che si racconta, insomma. loro possono essere questo. Sì, io ti sto facendo le domande Loro potrebbero essere questo, cioè loro possono essere quelli che promuovono un racconto diverso del territorio. Mo, lo potete fare pure su Mappina, ma lo potete fare su altre 1.000 piattaforme. Le altre piattaforme sono più complicate. Mappina è più Ma bella. scusami, ma è una specie di Wikipedia, però fatto con le immagini. Sì, è una specie sì, come Wikipedia. È Cioè, una mappa si può con tantissimi posti. Sì, tu puoi interagire e in caricare questo caso io foto, posso video, caricare video. suoni, sì, foto, video, suoni e testi, cioè testi scrivere, dicendo dove la strada, dove li Sì. metti. Poi puoi muovere il puntatore e là esce. Però rispetto alle categorie che ti ho detto, non il vino bianco, capito? Cioè, se vuoi fare la mappa dell'uva particolare che sta qua e dove sì, la puoi fare, ma non su Mappina la puoi fare. Sì, è per forza online. Sì. Adesso vi faccio 2 minuti, vi faccio Aspetta vedere il che si accende il video proiettore. che ho fatto per il crowd. Così capite che tutte queste cose qua, io non ho mai fatto nel crowdfunding una cosa importantissima, fare degli eventi offline, cioè delle iniziative, perché con gli eventi offline raccogli un sacco di soldi, io non l'ho fatti e me ne pento perché forse avrei raccolto di più. Io ho lavorato soltanto online utilizzando quegli strumenti là. Ci metto un po' un attimo. Poi dopo facciamo vedere la pagina fan a Mister Social e vediamo se la mia pagina fan va bene. Vado? Sì, guarda il volume come siamo messi. Aspetta che te lo avvio io. Allora, volume, cioè, aspetta, guardiamo se non di botto. Vado a mettere sopra. Ah. No, è un altro video questo. Tu l'hai messo lì? No. Questo, crowd, no, crowd. Quello è più lungo. Noi abbiamo fatto solo questo, oltre a lavorare sui social, senza dicendo che il crowd c'era. Tu hai contribuito? No, non mi ricordo. Lui sì. Non mi ricordo, l'avevo visto. E alla fine abbiamo chiuso a 44.007. Abbiamo tre giorni prima abbiamo raggiunto, o quattro giorni prima non mi ricordo più, abbiamo raggiunto il goal di 30.000 euro. E, che prospettive ci sono poi? Perché mi parlavi che ok, la piattaforma si fa, però per esempio se io la voglio portare in Valle Gallina questa mattina. Ma se tu la, adesso la puoi già portare così com'è, ma tanto la stiamo rifacendo, non ti conviene. No, no. Il problema è, per esempio, con Porto Vesino è che ne ho, io ne ho usate alcune di piattaforme, poi mi ritrovo uno del grande problema che poi l'esportazione dei dati rimane lì perché magari la maggior parte delle volte non puoi esportare. No, allora sulla piattaforma nuova tu potrai, oltre che contribuire alla costruzione di mappina, cioè fare le mappine d'Italia, potrai farti anche le tue mappe con un sistema molto semplice in cui potrai caricare sia i tuoi contenuti, farli caricare altri, sia utilizzare gli open data system. Verrà rilasciata anche la piattaforma da caricare su qualsiasi altro sì. E che tempi ci sono, visto che se lo dici qua davanti a tutti non mi sono sicuro. Ma telefoniamo a Montanari, chiediamo stamattina, ci abbiamo fatto colazione insieme a Termini. No, allora i tempi per rifare mappina sono nella prossima settimana, per la piattaforma a gennaio. Perché era una cosa che... Poi comunque rilasciamo l'API per fare le app e tutto. Sicuramente è uno dei modi per uscire da quella grande centrifuga di social network dove alla fine carichi un sacco di contenuti, carichi un sacco anche di informazioni e poi non ti rimane più nulla, no? Perché questo... Sì, infatti. Buttati dentro nel discorso il fatto che i social servono la promozione tutto, ma quando costruisci qualcosa. No, non tant'è vero che anche Facebook l'ha capito che adesso ti ripropone i tuoi ricordi, no? Per cui ha capito che il fatto di avere una pagina che ti scende in verticale rispetto al tempo è una cosa che secondo me prima... Esempio, non ti permette di fare la ricerca solo per, neanche nella tua timeline, per dire, no. Non lo vuole fare, cioè non gli interessa, no? No, perché devi fare continuamente cose, non devi accontentarti di quello che c'è già, devi essere sempre attivo, altrimenti non c'è coinvolgimento, non c'è interesse per gli altri. Se vuoi una cosa del genere è un social come Tumblr. Perché vanno persi? Vanno persi nel senso che abbiamo appena detto che non li puoi recuperare nel tempo. Cioè, sì, devi metterti là e devi fare una ricerca abbastanza. È impossibile, cioè devi continuamente scorrere. Quindi c'è un problema di comunque di avere la possibilità di avere un sito che. Sì, però i social ti servono per fare delle cose che servono ad altri. Capito? Cioè, io mappina. Utilizzo moltissimi social per diffondere il progetto, per far vedere l'avanzamento del progetto. Non utilizzo i social per, come piattaforma, lo utilizzo come strumento. Cioè, se io devo fare la call, quando abbiamo lanciato una call l'anno scorso c'era a Napoli, non so se qua c'è, ai semafori il giocoliere, quelli là che intrattengono ai semafori, non c'è. C'è un gruppo a Napoli che sono parecchi, no? Chi con le palline, chi con i cosi, sono un gruppo di giocolieri che intrattiene le macchine ai semafori e poi chiede qualche soldo. È bello perché poi è anche piacevole, no? Stare al semaforo con questo che ti gioca davanti. E poi lanciamo la caccia al giocoliere. Io nel giro di 4 ore ho avuto 7 video, cioè la lanciammo sui social, Ma era una cosa che mi ero inventata io lì per lì, manca a sapere che diventava, mo so, virale, che mi arrivavano sette, che poi sbagliano, perché invece di mettermeli su mappina, molti me li hanno mandati su Facebook. Per cui io, no, li devi caricare su, tu li devi caricare sulla piattaforma. E passare dai social alla piattaforma è la fatica più grande che si fa, perché le persone pensano che tutto avviene nell'ambito del social. Per cui il problema non è piattaforma social, è dal social che te li devi tirare giù. A me un sacco di persone, un mio amico che è c'ha la macchina fotografica, lui me li scarica, cioè si è aperto un giorno l'account, ha provato a mettere, me li scarica, ma io quando c'ha me li manda, me li metti tu per favore, perché lui non è social, è solo fotografo e non, il computer non lo sa usare. Però con tutta questa storia qua gli piace stare su mappina. Io dico, ma perché ti piace stare su mappina? No, perché a me mappina mi piace, io vedo le cose e le fotografo per mappina. E vabbè, e per cui devo fare tutto un lavoro io. No, vabbè, glielo faccio con piacere, che uno è bravo. Po'. Sì. Innanzitutto è a 400 persone che postano video foto. Napoli fa quante abitanti? Allora, solo Napoli siamo sotto il milione. Seconda cosa, Mappina è fruibile anche da parte dei turisti? Ma sì, in che senso? È un sito, è un sito. È un sito. Però non ha una visibilità da parte dei turisti che vengono a vedere Napoli. Resta. Non lo so, però io ho il 30% al sito che mi viene da Inghilterra, Francia, Germania e Russia e America. E parliamo di accessi al, al sito. E quanti accessi ha? Dipende dalle settimane. Posso avere 2007 e arrivare a 22.000, dipende da quello che succede. La settimana? Sì. E secondo noi abbiamo in Trentino, abbiamo fortuna che ho anche tante montagne, tanti posti fuori dalla città, e con Mappina si può mappare anche particolari. Sì, io con Mappina visto che su Mappina voi potete fare anche quello che volete, nel senso che un corso di master di pianificazione del paesaggio mi ha chiesto, della Calabria, di Rende, mi ha chiesto di fare la propria mappa. È l'unica mappa che si sta su tutta Mappina che ha il nome di una regione invece di avere il nome di una città. Perché i calabresi sono così. Io ho detto, ma dove la facciamo? A Rende? Apro Rende, Reggio, Cosenza? No, Calabria. Calabria. E loro hanno, e continuano a mappare, nonostante il master sia finito, continuano a mappare tutti i paesaggi calabresi. Si sono inventati 5-6 tipologie di paesaggio, e cioè, se voi andate, scegliete sopra, scegliete le città, mettete Calabria, esce la Calabria e tutti i paesaggi calabresi. Nel senso che Mappina ospita anche le mappe degli altri. Su questo non ha nessun problema, però diciamo il concetto comunque si può trasportare dalla città anche alla periferia, insomma all'ambiente. Io per esempio una cosa che vorrei fare, la mappa del mare, perché la mappa del mare secondo me è bellissima, tutte le archeologie subacquee, tutta la fauna. Io ogni tanto lo dico, però se, cerchi in Trentino, ce ne sono tanti subito comunque Trentini, ce ne sono tanti che fanno subito in Trentino. Sì, vabbè, però sicuramente per dire che negli ultimi anni la parola mappa, geografie, mappare si sta usando sempre di più. Qua a Trento abbiamo un campione di mappature che l'abbiamo visto pomeriggio, insomma, che è Maurizio Napolitano, ieri, due giorni fa, ha fatto, come dire, una specie di scherzo, ha cercato nelle vie di Trento e le ha visualizzate su una mappa, le vie dedicate a uomini e le vie dedicate a donne, no? Utilizzando appunto i doppi open data che rilascia il Comune di Trento. È un modo per scoprire il territorio, no? Sì. È un modo per raccontare in maniera diversa e addirittura a volte anche stupirsi dei risultati, no? Sì. che si ha. Si parlava prima andati in Castelvesena con Renzo il Custode, che lui fa parte dell'associazione Usi Civici, la provincia di Trento, e si parlava prima di far vedere magari anche la popolazione cos'è il 52% del territorio trentino che è sotto uso civico. Quindi questo risultato incredibile visuale che hai, che potresti comunque magari cambiare anche l'opinione pubblica davanti, sì, a dei risultati visibili. Forse la geografia, la mappatura potrà servire per questo, no? Sì, sono le nuove forme di neogeografia, che mentre prima... allora, io ho fatto l'urbanista 2 anni, per cui per me la planimetria è uno strumento, come dire, il famoso strumento di potere. Fare un confine e decidere qua costruisci 250 metri quadri, qua non costruisci, come dire, tu che ti fai i confini, no? Il confine è una classica operazione di potere. Con lo strumento invece che noi abbiamo digitale è come se avessimo, come dire, moltiplicato e democratizzato questo strumento di potere, per cui noi possiamo scrivere tantissime geografie. Però poi non devi confondere i processi di neocartografia, che sono tutti quelli legati a OpenStreetMap, cioè delle persone che costruiscono la cartografia, e delle persone invece che raccontano il territorio e fanno geografia. Cioè, che poi la geografia abbia sotto una cartografia... Cioè, che se una geografia sociale è una geografia come proiezione di dati, insomma. No, cioè, una cartografia è la stessa differenza che c'è fra raffigurazione e rappresentazione, no? La raffigurazione è la raffigurazione di una cosa di quella che è, per quella che è, no? Questo è fatto così, io lo disegno così. La rappresentazione è che io posso scattare una foto di questo e fare la foto tutta deformata, ma è una rappresentazione di quell'oggetto. Io con la geografia faccio una rappresentazione del mio, fortunatamente, territorio, non del territorio della cartografia, perché quella è una raffigurazione del territorio, che c'ha le valli, gli edifici, le piazze, le fontanine... Per capire la differenza tra una geografia partecipata e una geografia di un'azienda, ricordo sempre Maurizio Napolitano, che lui parla sempre di OpenStreetMap e Google. Google è un'azienda, OpenStreetMap è certo, data agli utenti, no? Diciamo, c'è un abisso. Cioè gente che va su OpenStreetMap e inserisce dati che mancano. L'altro giorno sono andato sulla parte di Cagliano. Su Google c'è segnata ancora la macelleria, su OpenStreetMap no, perché l'ho tolta io, e ho aggiunto delle fontanelle che su Google neanche esistono. Perché la macelleria non ci sta più? No, l'hanno chiusa 2 anni fa. Ah. Oppure ho aggiunto anche il tabacchino. C'è questa possibilità che Google non può arrivare a quei dati, OpenStreetMap sì. Certo. E qui è il succo di partecipare a una mappa collettiva oppure subirla da parte di un'azienda, che è Google. Quindi, lavorare su OpenStreetMap vuol dire lavorare su un bene collettivo, no? Un bene comune. Comune, comunque sempre aggiornato, cosa che Google non potrà fare mai, per esempio. E un'altra cosa è che Google è di proprietà di qualcuno, OpenStreetMap è come Wikipedia. Sì, però dai, sempre aggiornato, se ci sta una comunità che l'aggiorna, perché io quando ho trovato il problema su cosa faccio viaggiare mappina... Che ha OpenStreetMap, nel senso che ci sono zone aggiornate... Trento ha mappato anche gli alberi del centro. Ma perché sì. A Napoli vai a sbattere faccio un muro se utilizzi OpenStreetMap. Certo, con tutti i problemi che ha di, ma che anche Wikipedia, insomma, la figura di aggiornamento e di cose. Però è incredibile. È una logica completamente diversa, logicamente. Come dire, Noi utilizzeremo sicuramente OpenStreet Map e non utilizzeremo API di Google o cose del genere. Dubbi ci sono, è ovvio, cioè dubbi sull'utilizzo, su, come dire, la sicurezza dei dati, però sì, è una cosa. Ma infatti uno dei laboratori che proverà a fare mappina quando ci riuscirà e questa caspita di piattaforma sarà. Sarà a farle coinvolgere i mappers, che sono persone come voi, a rifare su OpenStreetMap la mappa di Napoli, perché la mappa di Napoli su OpenStreetMap non funziona. Allora io che faccio? Porto i semplici cittadini che sono appassionati della propria città e scattano foto e sono passati già dal farsi al selfie a invece scattare la foto alla città, a fargli ricostruire la cartografia. Ci riuscirò.